arme poi coi cerchio che ti circonda con mistico poter. La tua voce è dolce come il lamento dei violini nelle notti quiete. Tormento, solo di me vegliando, l'anima tua chiedeva, e l'anima mia ardeva nell'ombra. Senza parole.